Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci alle 8:20 minuti. Siamo qui. Alle 8:20 minuti Oscar. Di questo 14 aprile. Bellissimo ieri sera vedere che il Real Madrid ha vinto allargando il campo. Hai visto questa cosa di Repubblica? Ah, sì. Hai detto allargando il campo, ci sono le fotografie prima della partita, hanno allargato di un po' di metri, ci sono dei limiti, possono, esatto, però loro possono... prima della partita hanno deciso che qui la allarghiamo, ragazzi, allarghiamo, e alla fine, no vabbè, adesso al di là di tutto, no, perché mi viene in mente che se gli diamo la possibilità alla politica di applicare la regola, cambieranno tutto, so, cambiano, si vota, ecco, in un altro modo, ragazzi, e così via. Il calcio cioè una scuola di riferimento per la politica. Allora, i santi di oggi: San Valeriano, Valeriano che è un martire ed è uno dei patroni di Roma, ed è patrono anche contro le tempeste, quindi mi sembra che bisogna pregarlo spesso in Italia. Ma tra tutti i santi dal nome strano che come al solito ricorderemo, ce n'è uno che io amo moltissimo, perché io lo imploro tutte le notti, tutte le mattine, perché lui è San Protestato di Rouen. E allora i protestati in Italia, noi poveri contribuenti vessati dalle cartelle, San Protestato, quindi cari ragazzi, 14 aprile pregate San Protestato, faccia qualcosa per travolgere Equitalia e mettere al posto suo, cioè all'inferno. San Protestato. Tra i santi con nomi impostani, San Liduina, Frontone, Asaco, pensate, un figlio lo chiamo Asaco, Tiburzio, ecco, direi qui, ci possiamo fermare qui. Oggi per me è un giorno particolare perché la morte di Handel è uno dei miei musicisti preferiti, e anche il giorno della morte nel 2004 di Fabrizio Quattrocchi, uno dei quattro ostaggi italiani in Iraq. Vi ricordate quello che si strappò il cappuccio dicendo adesso vi faccio vedere come muore un italiano, ecco. Allora, esatto, allora alle 8:22 minuti, ma da giorni stanno arrivando dei commenti su questo caso di questa rumena alla quale hanno tolto la semilibertà, caro Oscar. No, ti ricordi quella che il caso di Doina Matè, sì. O Doina Matè, non so come si pronunci, quella che con un ombrello ha ucciso Vanessa Russo, banale vite, gli è stata tolta la semilibertà perché di fatto faceva delle foto su Facebook un po' allegra in bikini sugli scogli in riva al mare. E naturalmente la reazione popolare è quella di dire giusto, perché già la semilibertà è già fuori, deve marcire in galera. Immagino che Se conosco le reazioni della pancia dell'opinione pubblica sono questi. Prima Vincino ci ha detto che l'ergastolo è una norma incivile, figurati, si sono scatenati su WhatsApp. Sì, perché immagino che sostengono che l'ergastolo non basta, ci vogliono. Se uccidono tuo figlio, questo è il classico argomento, se uccidessero tuo figlio la penseresti così, ma non è che uno Stato deve pensare con le menti di ogni singolo cittadino. Stato deve dare delle regole generali che vanno. Certo, che talvolta può sembrare troppo raffinato che la giustizia è delegata allo Stato, appunto perché non sia occhio per occhio, però può sembrare troppo raffinato a volte. Oltre ritengono che la giustizia debba essere occhio per occhio. Allora, qui ci sono diversi argomenti per tentare di capire perché il giudice di sorveglianza abbia deciso per quelle fotografie su Facebook di spegnere, per così dire, la libertà provvisoria e farla tornare al carcere. Alcuni dicono perché con Facebook può parlare con troppa gente rispetto ai limiti che aveva sul telefono, ma... Beh, l'ha detto il ministro Orlando, dice può contattare così un numero indefinito di persone, mentre la semilibertà era vincolata a un utilizzo del cellulare limitato. Vabbè. D'accordo, può essere. Alcuni hanno sostenuto no, perché quello era al mare mentre doveva essere al lavoro. Io sono convinto che in qualche misura abbia pesato il tipo di fotografia, cioè l'idea, ma insomma, non hai capito che ti diamo la semilibertà, ma devi assumere un profilo comportamentale coerente col fatto che non puoi mostrare in pubblico, eccetera, ecco, e quindi non ridere, capito, non cosa. Però questo sarebbe un pochino, cioè, ipocrita, una forma di ipocrita censura morale, lo so, però talvolta il giudice di sorveglianza, che io in questo caso non voglio difendere, io mi limito a dire, talvolta il giudice di sorveglianza verifica se il regime a cui è stato sottoposto, condannato, di maggiore apertura, di maggiore possibilità di esercizio delle sue libertà, sta dentro in questi criteri oppure no, è costretto ad adottare anche dei principi, per così dire. Quando tu prima ricordavi giustamente la reazione popolare, il giudice di sorveglianza non può del tutto astrarsi. Dici? Sì, io penso di sì. Cioè deve anche tenere conto della reazione popolare. Naturalmente dipende dalla sua sensibilità personale, però in taluni casi è quasi costretto a farlo. Ecco, e questa cosa è molto delicata, perché entriamo in un terreno in cui non c'è un criterio oggettivo, no? No, certo, perché a quel punto giudice che vai, sensibilità. Che trovi. Ovviamente la mamma di Vanessa Russo oggi sul Messaggero dice meritava l'ergastolo, invece ha preso 16 anni e dopo 9 anni ce la ritroviamo allegra e sorridente. Ecco, questo forse è una tematica sulla quale uno può discutere, cioè è giusto dare 16 anni per un'uccisione, un omicidio del genere e poi si sa dopo 8 anni già la semilibertà? Però se questo è stato fatto con 3 sentenze, non è che poi si può intervenire sulla semilibertà perché ha fatto una foto sorridente, dovrebbe stare tutta contrita, dovrebbe stare tutta arrabbiata. Con il jab in testa, non lo so, ecco. Lo so, questa è una delle contraddizioni di quando dei delitti di quel tipo, che non sono premeditati, non sono però avvengono, e però agli occhi dell'opinione pubblica e ovviamente dei parenti, di famiglia e dei cari, la grande distinzione tra un delitto premeditato o tra chi ha un carattere o la mancanza di valori tali per cui commette delitti in maniera sistematica senza rendere conto, in realtà la differenza non la vedono. Questo è un grande difetto dell'umanità, sì, per così dire. Comunque, se volete chiamarci su questo 800 24 00 24, vedi Oscar, ci stanno già chiamando, anche perché poi noi più avanti parleremo di carcere, avremo quel Giuseppe, esatto, Gulotta che ha avuto un risarcimento da 6 milioni di euro perché è stato 22 anni in carcere. 22 anni. Sì, anche qui da dire, non li ha passati tutti in carcere, però fortunatamente, sottoposto a misure di, esatto, ha avuto anche di limitazione della libertà. Esatto. Però ci chiama Sergio da Monza. Buongiorno Sergio, su questo caso immagino. Grazie. Buongiorno, grazie per l'intervento. Una considerazione semplice che in realtà è una domanda a voi due. Allora, non entriamo nel discorso pena di morte, non è previsto al nostro ordinamento, io personalmente sono contrario, ma a mio parere, voglio dire, vale quello che vale. Vorrei capire però a questo punto, in una situazione del genere, dove non solo c'è un omicidio, quindi penso il massimo reato configurabile nel diritto italiano e credo anche mondiale a questo punto, e secondo me per certi versi anche aggravato dalla crudeltà, perché io lo dico, non rifacciamo il processo. Non lo dico in base a quello che è stato riportato sui giornali. A questo punto dico, ma quando è previsto nel nostro ordinamento l'ergastolo? Quando? Se non in un caso del genere. Voglio dire, di fronte alla pena di morte, se io dovessi commettere un reato come questo, sarebbe peggio per me sapere che io sarò in una gabbia chiuso a vita. Va bene, Sergio, la domanda è chiara, non so, Rina, l'ergastolo per dire, vari ergastoli, quindi l'ergastolo c'è... Però Oscar, qualcuno forse dice ormai l'ergastolo in Italia non si dà più. Non applichiamola al caso, cioè non sappiamo, non abbiamo seguito il processo. No, sì, non sappiamo com'è. L'ergastolo si dà, virgola. Chi ha l'ergastolo può essere sottoposto in ogni caso dopo 27 anni, eccetera, eccetera, a seguito di alcune valutazioni sull'evoluzione del suo percorso personale nel periodo detentivo, ha una misura di liberazione. C'è chi invece poi il fine pena mai lo vive come fine pena mai ancora, cioè per essere chiari, io dico solo al nostro ascoltatore, rispetto a tutti i punti di vista, perché da tantissimi anni ho capito che questo è un treno scivoloso, però come può dire allora l'ergastolo a chi lo diamo? L'ergastolo lo dobbiamo dare a chi pianifica, realizza, ordina e commette omicidi per grandi reti criminali, eccetera. Sì. Lei non può pensare che la romena che ha ucciso con un ombrello cioè, sia una pianificatrice mafiosa di stragi, perché se non vede la differenza, non so, può essere che lei non la veda e ritiene che non ci sia. Secondo me c'è sicuramente c'è, e infatti ha ottenuto 16 anni di carcere. Poi si può discutere forse che è un sistema buonista, usiamo questa parola, però prima si diceva che in Norvegia quello lì Breivik, come si chiama, si è preso 20, si prende 25 anni di carcere. E che carcere sta con i videogiochi, i canali televisivi satellitari, il sistema penale che vai, condanna che trovi. Però teniamo sospeso, cioè, adesso scusate, il problema del nostro sistema penale è che finisce per accanirsi soprattutto con i poveri, diciamola tutta, no? Mentre chi ha... questo ovunque, questo però, ovunque, no, anche, perché negli Stati Uniti la pena di morte è accettato, che viene data soprattutto a neri, a ispanici. In passato, ecco. più che oggi. Sì. Quindi, quelle sono le statistiche di chi sta al braccio della morte da decenni. Però detto questo, da noi è particolarmente significativa questa cosa qui. Ma per il resto noi non abbiamo un ordinamento buonista, eh. Cioè, se lo vediamo in termini comparati con gli altri paesi, noi non facciamo altro che aggravare le pene edittali. Dici? Però casi così ce ne sono, insomma. Ma non sono pene leggere. Cioè, io ho questa singolare cosa di un paese in cui dice, gli hanno dato quanto? 16 anni di carcere? Poco, niente. Ah, ragazzi. Beh, 16 anni sì, sono... Sono 16 anni, sono un quarto della vita di una persona. Ma ecco, no, dopodiché io non so quanta gente abbia un'idea di cosa sia il carcere davvero, perché io penso anche che aiuterebbe forse un po' un passaggio obbligato nella vita, non da carcerato, ma per capire che cos'è, come funziona dentro, ecco. Ma tra l'altro teniamola sospesa questa questione, che riprendiamo più avanti con Giuseppe Gulotta. O facciamo una parentesi, se volete, politica, perché ci avviciniamo al referendum, ogni giorno magari diamo una chicca su questo. Parentesi politica, quindi si parla di mangiare? No, parla di mangiare. No, subito vogliamo salutare Matteo Ricci, che è vicepresidente del PD, è sindaco di Urbino. Buongiorno Ricci. Buongiorno. Buongiorno a Pesaro. Buongiorno a tutti, sindaco di Pesaro. Pesaro, certo, sì. Questa battuta di Oscar sul mangiare, ma non era riferita certamente a Matteo. Ma no, era perché a questo bisogna anche essere un po' ironici, per così certo. Dire. Allora, sindaco, va a votare domenica? Sì, io vado a votare, anche se il referendum è, ormai mi pare abbastanza svuotato di significato, perché un conto erano i 6 quesiti e un conto è l'unico quesito rimasto. Gran parte delle obiezioni che le regioni avevano posto sono state recuperate in legge di stabilità da parte del governo. Questo quesito è diventato abbastanza inutile, perché riguarda soltanto le trivelle esistenti, e quindi bisogna capire se continuare a prendere gas in particolar modo fino all'esaurimento del giacimento oppure no. E quindi andrò a votare, anche perché voglio dire, è un ruolo istituzionale, di certo andrò a votare, però è evidente che il referendum ha perso di grandissimo significato rispetto alla partenza. Però lei da renziano va a votare comunque, il Presidente del Consiglio è un ruolo istituzionale anche quello. E dice insomma una cosa diversa, sì, questo è interessante. La differenza è che noi non veniamo espulsi, non veniamo bannati. Il Presidente del Consiglio ha fatto un ragionamento molto semplice, che quando c'è un referendum abrogativo c'è un quorum, e non far raggiungere il quorum è legittimo per non portare avanti il referendum. Nel mio caso io vengo da una regione che è stata tra le regioni che ha chiesto i quesiti, ha posto i quesiti, e adesso c'è ovviamente soddisfazione perché 5 su 6 sono stati accettati, ne rimane uno che è abbastanza svuotato, tant'è che è anche difficile capire in questo momento cosa votare, perché il problema si è praticamente quasi risolto del tutto. Io fra l'altro sono un grande fautore delle rinnovabili, ma sono anche un uomo di governo, sì. Per cui l'Italia è arrivata al 39% di copertura energetica attraverso le rinnovabili, anche se aumenteremo nei prossimi anni, è cosa che dobbiamo assolutamente fare. Bisogna capire dove prendiamo il resto dell'energia, visto che abbiamo detto di no al nucleare, il governo ha fatto una scelta molto chiara sulle centrali di carbone, e rimane gas e petrolio, quindi probabilmente è più utile usare il gas e il petrolio che abbiamo noi piuttosto che comprarlo. Quindi è un ragionamento, se parliamo di politica energetica, il Presidente del Consiglio ha chiarito benissimo qual è la strategia, e la cosa che mi fa anche un po' arrabbiare è che molti di coloro che oggi sono nel comitato contro le trivelle poi me le ritrovano nel territorio contro il solare, contro il fotovoltaico, contro l'eolico, contro tutto, le biomasse, contro il biogas, cioè contro tutto, e quindi in verità non sono veri fautori delle rinnovabili, semplicemente c'è molta strumentalizzazione ormai dietro questo referendum, e per questo ribadisco, si è svoltato di grande significato rispetto alle politiche energetiche. Oscar, oggi anche Giorgio Napolitano su Repubblica alla domanda andrà a votare, dice: se la Costituzione prevede che la non partecipazione della maggioranza degli aventi diritto è causa di nullità, non andare a votare è un modo di esprimersi sull'inconsistenza dell'iniziativa referendaria. E anche secondo Napolitano me dice si può non votare. Un'implicita risposta alle parole del Presidente della Corte Costituzionale, che sono state un po' forzate dai giornali, perché ha detto io credo che si debba partecipare, però come ex Presidente della Repubblica secondo me Napolitano fa bene a dire questa cosa qua. Però Matteo Ricci va a votare, ma ci dice anche cosa vota? No, questo non ce lo dice. Allora, sinceramente ancora non lo so, per i motivi che ho detto prima. Ma come? Deciderà gli ultimi due giorni? No, spiego, perché se c'erano tutti i 6 quesiti avrei votato sicuramente sì, perché era un'indicazione molto chiara rispetto alla politica energetica del Paese. In questo caso, essendo rimasto l'unico quesito sulle trevelle esistenti, il referendum è abbastanza inutile, quindi votare sì significherebbe mettere anche a rischio dei posti di lavoro e forse anche fare una cosa dal punto di vista ambientale non proprio corretta. Votare no per un fautore delle rinnovabili come me è complicato, quindi veramente in questo momento ho deciso di andare a votare ma non so cosa voterò. Anche questa è una posizione, diciamo, forse la notizia più importante allora che va a votare contravvenendo ma però Ricci, ammettiamolo bene, da renziani, cioè in realtà i presidenti delle regioni, se voi gli davate retta all'inizio e facevate la direzione un anno fa, primo, il governo non doveva fare marcia indietro, perché il governo secondo me aveva aperto bene rispetto ai veti del centrodestra e del governo Monti alle nuove ricerche ed estrazioni. Invece il governo ha dovuto praticamente autosmentirsi radicalmente in legge di stabilità. Ma perché? Perché non aveva preso sul serio la possibilità che davvero tutti i governatori del sud del PD prendessero l'iniziativa referendaria. Non è un po' così il bilancio di questa vicenda? Hanno vinto già loro, questo è il punto. Sì, io penso anche che ci siano molti presidenti di regione che hanno sottovalutato la volontà di strumentalizzazione da parte di alcuni. Io ho grande stima nei confronti di Michele Emiliano. No, ma è chiaro che i toni, come dice lei, non sono uguali. Sì, no, è così. È un amico, però è evidente che più si avvicina alla data del referendum, più è chiaro che sta provando a giocare una partita politica tutta interna che nulla a che fare con la politica energetica del paese. Questo mi dispiace anche, glielo ho anche detto. Vabbè, però diciamo, se ci sono stati gli errori, sono stati fatti, diciamo, non soltanto da parte del governo, ma probabilmente anche da parte delle regioni. Il punto vero è che oggi, rispetto alla politica energetica del paese, il referendum è diventato abbastanza... Questo è chiaro, però si poteva evitare tutto. Sì. Va bene. Intanto Matteo Ricci la ringraziamo, sindaco di Pesaro, mea culpa, vicepresidente del Partito Democratico, per carità, abbiamo scatenato la guerra di campanile tra Pesaro e Urbino. No, assolutamente no. Grazie a Matteo Ricci. Allora, dopo la pubblicità, qualche minuto, continuate a chiamarci sulla questione carcere, pene, eccetera, perché avremo la storia, racconteremo la storia di Giuseppe Gulotta, che è stato condannato in via definitiva per un omicidi che non ha mai commesso. Ha avuto 6 milioni di risarcimento per 22 anni di ingiusta detenzione dallo Stato. 6 milioni. Ma tra poco. Allora, sono le 8:41 minuti, siamo qui, caro Oscar, e con noi c'è una persona che si chiama Giuseppe Gulotta, che per la verità nel 2013 era già passata a questi microfoni. Giuseppe Gulotta, buongiorno. Buongiorno. Giuseppe Gulotta è stato condannato, ci aiuta a capire le date, per l'omicidio di due carabinieri, giusto? Sì, ad Alcamo nel 1976. Sì, perfetto, sì. Un doppio omicidio, duplice omicidio che lei non ha mai commesso. Io non ho mai commesso, sì. Come hanno accertato ormai sentenze definitive, sì, nel senso che lei fu... Prego. Scusi, c'è stata appunto una sentenza nel 2012 che attesta la mia estraneità ai fatti. Lei fu portato in quella caserma per l'arresto, fu torturato, possiamo dirlo? Sì, ho passato una notte sotto i carabinieri proprio con... cose indicibili, ecco, io arrivare pure a tirare gli organi genitali, a strizzarli, a puntarti anche una pistola in viso, insomma, minacciando, pugni, schiaffi, insomma, di tutto di più, come si suol dire, e che poi la mattina purtroppo sono stato costretto a confessare il falso. A confessare un delitto, un duplice delitto che lei non aveva commesso. Che io non ho commesso. Per questo la notizia che l'ha riportata diciamo, agli onori della cronaca, che anche se lei forse non li voleva, è che lo Stato ha deciso un risarcimento per avere compiuto, per avere passato lei quanti anni in carcere? Ma in tutto sono stati 22 anni, sarebbero 2 anni e 3 mesi dal 76 al 78 e poi il resto dal 90 al 2010. Tutto 22 anni. In tutto 22 anni. Quanto le ha dato lo Stato come risarcimento? Lo Stato si può dire che ha dato un indennizzo, diciamo, ha valutato gli anni di carcerazione e mi avrebbe concesso 6 milioni e mezzo circa. 6 milioni e mezzo di euro? Sì. Io che non so che dire, se sono tanti, io ecco, posso dire solo che da un certo punto di vista, guardando un po' la mia situazione finanziaria e un po' il resto, posso dire che sono tanti, ma guardandolo da un altro punto di vista penso che, insomma, la risposta se la possano dare chi di competenza, diciamo. Sì, no, lei aveva chiesto tramite i suoi avvocati, credo, 56 milioni. Sì, ma al di là di tutto, non siamo qui a stabilire se sono pochi o tanti, sì, Oscar. Sì. Si tratta di, come dire... Ma lei, posso fare una domanda? Lei è stato detenuto in carcere per 22 anni? No, sono stato in questi anni, io fortunatamente, se così posso dirle, ho ottenuto i vari benefici di legge che prevede l'ordinamento penitenziario. Ecco. Sì. Se non ho... I primi sono stati i primi 2 anni continuamente, poi altri 7 anni circa nella seconda carcerazione di fila, poi mi hanno concesso i vari benefici che prevede l'ordinamento penitenziario e continuavo con... Poteva uscire, insomma, dal carcere di giorno almeno. E uscivo la mattina e rientravo la sera, quello che dico io. Il carcere poi la notte non potevi stare vicino alla famiglia. Io non era solo per capire a che tipo di regime fosse stato per 22 anni, quindi comunque il beneficio dell'affidamento per il lavoro esterno ce l'aveva avuto. Ecco. Sì, sì, ma lei obiettivamente reputa che, perché questa è una valutazione più o meno di 300.000 euro l'anno. Allora, ma io aspetti. Non ho fatto il calcolo. Semplicemente, più o meno 300.000 euro l'anno. Allora, sì. Io le faccio una domanda. Lei mi dirà, io però sono vittima di una intollerabile errore giudiziario e questo è la sua forza. Lei capisce anche che dall'altra parte chi ci ascolta dice, beh, però un momento, aspetta un po', 300.000 euro l'anno rispetto... ricordiamoci bene, noi stiamo parlando di un paese in cui il reddito medio pro capite, medio, che vuol dire polo di Trilussa, è di poco superiore ai 20.000 euro. Poi c'è il nord d'Italia in cui arriviamo a 37-38.000 e un sud in cui scendiamo pure fino a 14-15.000 euro. Allora, poiché questo è il punto di riferimento, e per capirci, facciamo un altro esempio, un insegnante sta sui poco meno di 30.000 euro l'anno, capito? Allora, 300.000 euro l'anno a chi ci ascolta appaiono come una cifra molto cospicua. Più che congrua l'anno. Lei però... che pensa? Io penso e rispondo a queste persone che magari ragionano in questo modo, diciamo che io una richiesta esagerata in questo modo, dico quanto vale una giornata passata in carcere da innocente e non poter decidere della tua vita, quando della tua vita per circa per 36 anni sono stati altri a deciderla. Ah, io devo dire sono d'accordo, cioè io non farei a cambio, ecco, lo dico brutalmente, non farei a cambio passare 22 anni come ha passato lei in cambio di avere 6 milioni e mezzo di euro. Appunto, io qualcuno della televisione a me mi ha fatto una domanda una volta, dice Gulotta, ma non le sembrano troppi questa cifra che i suoi avvocati hanno chiesto? Io ho risposto solo, se mi trovavano una persona nel pubblico o anche lei stessa, se in cambio di 100, 200, 300 milioni di euro avrebbe fatto quello che ho fatto io, avrebbe trascorso quello che ho trascorso io. La risposta è stata un no secco. Certo. Cioè, io ora non so quanto, io credo, come ho detto prima, 6 milioni e mezzo per la mia persona sono tanti, però voglio dire, la sofferenza in questa, mia non vita apprezzo, c'è, non apprezzo, c'è la libertà, sofferenza, certo. La sofferenza non solo mia, la sofferenza dei familiari. La sofferenza in che cosa è più grande? Nel dire quando era in carcere sono innocente, e guardi che lo dicono in tanti, e anche lei ne avrà incontrate, sì, di persone che lo dicono e non lo sono, e altre invece che lo dicono e lo sono magari. E lo sono, sì, io lo dicevo e non lo ero, e la perdi, avevo un figliolo io. L'ho dovuto lasciare a 2 anni e mezzo, io non ho avuto il piacere di accompagnarla a scuola, il piacere di farmi una passeggiata con lui, capito che voglio dire? Io quando uno entra in carcere inizia a mancare tante di quelle cose, nemmeno la passeggiata nel corso potevo fare, cioè anche se io la mattina uscivo e andavo al lavoro, avevo l'obbligo di non fermarmi nemmeno al bar per poter prendere un caffè, per dire, è una fesseria, sì. Ma ti vietano tutto. Io avevo come se avevo un muro a destra e a sinistra e andavo avanti. Ricapitoliamo, il tutto da completo innocente, cioè fu proprio, sì, ma più che un errore giudiziario, se mai capito perché presero lei come capro espiatorio, ecco. Come capro espiatorio hanno preso me, perché conoscevo chi mi ha accusato, chi gli hanno fatto dire anche sotto tortura il mio nome e il nome di altri. Eravamo tutti conoscenti, eravamo diciamo amici, pertanto hanno come dire, i carabinieri hanno formato una banda come se proprio efferati killer, che sono riusciti ad ammazzare 2 carabinieri dentro una caserma. Io posso dire che ho quasi 59 anni e non ho mai impugnato un'arma in vita mia. Non è che si deve, diciamo, talmente ci sono sentenze che dicono che lei non c'entra nulla, quindi non è che si certo, deve. Ma io voglio spiegare, diciamo, la mia innocenza, sì. Da dove. Ma si è scoperto poi questi 2 carabinieri chi li ha uccisi, o è rimasto un mistero irrisolto? Ma questo credo è rimasto fino ad ora un mistero irrisolto, ma credo che continuerà a rimanere un mistero irrisolto. Dopo 40 anni, ora non credo che o possa venire qualcuno magari a dirci come sono andati fatti, magari. No, ma può succedere. Certo, per concludere, perché Oscar Giannino prima le ha fatto questa domanda sulla detenzione, perché quando io la invitai nel 2013 ricevetti una lunga lettera, caro Gulotta, dalla signora Gabriella Battiston, che ha raccontato di Poggi Bonsi, ha raccontato di avere fatto moltissimo per lei quando era in carcere, averle dato un lavoro, averla anche aiutata. Era rimasta un po' male perché lei non l'ha mai, come dire, neanche ringraziata, non ha mai avuto una parola di... Il ringraziamento che le ho dato era sul lavoro che facevo in quella ditta io, come dire, e qualsiasi cosa c'era da fare, io ero un tuttofare lì, voglio dire, no? Cioè, il ringraziamento poi l'ho sempre detto, io il lavoro per me è stato, in questa storia è stato importante, e ringrazio e non finirei mai di ringraziare la Uniblock a nome della Battistone e del marito anche di Ceccone, certo. Per carità, questo io non l'ho mai negato, che loro mi abbiano dato una mano in questo senso, certo. Solo che purtroppo ora devo dire che gli ultimi anni poi si sono comportati in modo un po' sbagliato nei miei confronti, hanno fatto di tutto con una non so se è stato un motivo valido o no. Sono stato licenziato, cioè hanno trovato un modo per farmi autolicenziare. Io è da 2 anni e qualcosa che non lavoro più, appunto, perché mi sono, come dire, sì, sì. In teoria mi sono licenziato io, ecco. Invece vabbè, insomma, diciamo, sulle no, parole non è no, così, su queste vicende personali poi non lo so, però giustamente le dovevo questa domanda perché avevo ricevuto questa lettera tempo fa. E Gulotta, noi la ringraziamo, non so, gli ascoltatori, caro Oscar, possono pensare che siano tanti, che siano 6 milioni e mezzo questo risarcimento che ha ottenuto. È 122 anni però di custodia in varie forme, però sono 22 anni, un pezzo, diciamo, un pezzo fondamentale di vita, non è che certo. Sono... Poi non, però io sono convinto che molti pensano, però pagate bene. Io sono convinto che molti lo pensino. Lo so, ma perché c'è molta brutalità nelle reazioni. Io delle ricordo persone, tutti che sui 52.000 soggetti che a fine 2015 erano nelle carceri italiane, per questo ricordiamolo sempre, allora qui ci sono quelle che attendono il primo processo, sono ancora 8.500, cioè il 16% sono quelli in attesa del primo processo, per essere chiari, altro che quello, non il terzo grado di giudizio, quello definitivo. Quindi rendiamoci bene che cos'è il carcere davvero. Cioè, è vero che li abbiamo molto diminuiti, i detenuti in attesa di giudizio, che nel 2008-2009 erano addirittura il 51% del totale della popolazione carceraria. È migliorata la situazione, ma non siamo un paese la cui giustizia possa far dire sì, è un caso rarissimo. No, non è così. Abbiamo 40 secondi. Manuela da Milano ci promette di essere sintetica. Manuela, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi sentite? Bene. Buongiorno a tutti. Allora, sarò sintetica. Innanzitutto, io sono una troglodita che crede nella giustizia punitiva, punto primo. Punto secondo, la magistratura emette le sentenze in nome e per conto del popolo italiano, quindi anche in nome mio, sì. E quindi a me deve rendere conto delle sue sentenze, e se io non sono soddisfatta delle sentenze che emette, la magistratura deve avere il coraggio di spiegare il perché e il per come, cosa che non fa. Punto terzo, voglio dire, Giannino ha detto: avete mai provato l'ebbrezza del carcere? Perfetto, voi avete mai l'ebbrezza provato... lo dice lei. Va bene, avete mai provato l'ebbrezza della morte, dello stupro, della tortura, del sequestro di persona? Signora, ho detto, scusi, mi lasci finire. Non la lascio finire perché mi attribuisce una parola che non ho detto. Io ho detto, bisogna conoscerla. No, il paradosso suo non sta in piedi perché mi attribuisce una parola che non ho pronunciato. Perdoni. Peccato però che ci sia, che sia l'ebbrezza finito proprio adesso. No, è finito il tempo, non è che la sfumiamo. Manuela, al limite la teniamo per domani, riannodiamo i fili da qui, da domani. Lo so, ciao. Noi riannodiamo. Ciao.